Ascoltami tra rivoli di stella, brilla l'arsa favella, il tempo indimentica guerra, bombardamenti in core, core de muerte. Si posa sulla lapide stendale un fiore, taglia taglia sulla testa della pace, tempo di guerra verace, si mangia bimbi, soldati inermi, carro armati, terrore sugli schermi. Occidente d'armi, guerre atomiche, fango di fanchi, socchi di drammi su guance sagge di vecchi. Profezia Nostradamus, guerra, guerra, guerra, ricamo di dama inerma, di fronte ingiusta disarma, armatura infranta, proiettile inganna, l'arma 3 mitraglia, mitraglia aerodramma, pellicola noir di film, di militi ignoti, sepolture anonime, perduti fiati e non ritornati, non baci e amate lasciati, cadere fiori in fosse comuni di soldati disarmati, armatevi per guerre al petrolio e ai gasdotti, Ucraina e Russia, NATO corrotti, se armati è come questa guerra troverò una sepoltura indegna. Ingiusta guerra dilaga come l'ago e la spada, guerra di bombe come sopravvivenza noi di strada, come sopravvivenza noi di strada. Ascoltami tra rivoli di stella, brilla l'arsa favella, il tempo indimentica guerra, bombardamenti in core, core de muerte. Si posa sulla lapide stendale un fiore, taglia taglia sulla testa della pace, tempo di guerra verace, si mangia bimbi, soldati inermi, carro armati, terrore sugli schermi, occidente di allarmi, guerre atomiche, fanghi di fanchi, socchi di drammi su guance sagge di vecchi. Profezia Nostradamus, guerra, guerra, guerra, ricamo di dama inerma, di fronte ingiusta disarma, armatura infranta, proiettile inganna, l'arma 3 mitraglia, mitraglia, aerodramma, pellicola noir di film di militi ignoti, sepolture anonime, perduti fiati e non ritornati, non baci adame lasciati cadere, fiori in fosse comuni di soldati disarmati, armatevi per guerre al petrolio e ai gasdotti. Ucraina e Russia NATO corrotti, se armati è come questa guerra troverò una sepoltura indegna, l'ingiusta guerra dilaga come l'ago e la spada, guerra di bombe come sopravvivenza noi di strada. Ascoltami tra rivoli di terra, tra rivoli di stella, brilla l'arsa favella, il tempo dimentica guerra, bombardamenti in core, core de muerte, si sposa sulla lapide stendale un fiore, taglia taglia taglia sulla testa della pace, tempo di guerra verace, si mangia bimbi, soldati inermi, carro armati, terrore sugli schermi, occidenti da allarmi, guerre atomiche, fango di fanchi, solchi di drammi su guance sacce di vecchi. Profezia Nostradamus, guerra, guerra, guerra, ricamo di dama inerma, di fronte a ingiustizia disarma, arma infranta, proiettile inganna, l'arma 3 mitraglia, mitraglia, aerodramma, pellicola noir di film di militi ignoti, sepolture anonime, perduti fiati e non ritornati, non baci a amate lasciati cadere, fiori in fosse comuni di soldati disarmati, armatevi di guerra, di petrolio e gasdotti, Ucraina, Russia, NATO, corrotti, se amarti è come questa guerra troverò una sepoltura indegna, l'ingiusta guerra dilaga come l'ago e la spada, guerra di bombe come sopravvivenza noi di strada. Ascoltami tra i voli di stella. Tuono squarcio di sereno, il bimbo ignaro perde la madre, bombardamenti al terreno, termobombe, esplodo di organi, I miei reni lo stesso aspettano, aspettano lo stesso aereo bombardare di atomica. Di cuore tuonano aeroplano, fuoco a tutto spiano. Spie ci spiano, spiano piano. Piano, piano, piano, guerra contro umano, pace, pace contro eolico e solare. Terzo mondo infame, infame, infami, infame guerra. Petrolio contro solare, lame amare a chi in Ucraina non ha da mangiare. Bitcoin sale, ogni carro armato a comperare. Pace al sale, salario che non basta. Europa al costo di una guerra, riscaldamento a bestia, costo della vita si alza, erario e salario non basta, neanche per un piatto di pasta. Basta, basta, basta, nelle lacrime tue amore, Yoko Ono in fiamme di malore, io John Lennon Imagine, disastrato, ammalato da fiamme e fuoco. Caricate, armate, armate, sparatemi, immolatemi, urla il soldato. Madre, madre, mi vedi, mi sono arreso. Russo scontento, non volevo sparare, ero solo un bimbo, un essere non da mitragliare. Madre, madre, madre sacrale, se sai perdonare, perdona, perdona, perdonami, io non volevo sparare. Tuono squarcio di sereno, il bimbo ignaro perde la madre, bombardamenti al terreno, bombe esplodono di organi. I miei reni lo stesso aspettano, aspettano lo stesso per bombardare di atomica. Tuonano aeroplano, fuoco a tutto spiano, spie spiano, ci spiano. Piano, piano, piano, piano, guerra contro mano, a pace, pece contro olico e solare. Terzo mondo infame, infame, infame, infame, infame, infame l'Ucraina. Lame amare a chi in Ucraina non ha da mangiare. Bitcoin sale, ogni carro armato a comperare. Pace al sale, salario non basta. Europa al costo di una guerra, riscaldamento a bestia, costo della vita si alza. Erario e salario non basta, neanche per un piatto di pasta. Basta, basta, nella lacrima tuo amore. Io con in fiamme di malore, io Lennon Imagine, disastrato, ammalato da fiamme e fuoco. Caricato, armato, armato, sparatemi, immolatemi, urla il soldato. Madre, madre, mi vedi, mi sono arreso, russo scontento, non volevo sparare, era solo un bambino, un essere non da mitragliare. Madre, madre, madre sacrale, se sai perdonare, perdonami, perdona, perdona, ma io non volevo sparare. Madre, madre. Verrà la fine di bombe, silenzi su tombe, trombe suoneranno gli angeli, concerti a pace forse, se non radono tutto al suolo verranno, cantano cantanti mentre piangono, rimangono, rimangono, pace senza te, che guerra intorno hai? Come mitra cerca potere con violenza, mentre io sono pace e resistenza, perché scavo oltre l'apparenza. Tu che sei antibellica, passa un cacciabombardiere, gli urlo addosso il tuo nome e chiudo gli occhi. Ancora, ancora, di salvezza mia. Mia follia come la guerra e amene così sia, per sempre nel cuore mia, mia. mia, arma di pace sei tu, mentre in trincea bacio il tuo nome sulla foto che mi hai regalato e carezzo il tuo tatu che mi hai fatto. Patto di pace sei tu, soffio audace a volare verso ere, sere, averne sere ancora insieme, insieme, insieme, in pace dopo ere di guerre vere, vere, verrà la fine di bombe, silenzi su tombe, trombe suoneranno gli angeli, concerti a pace forse, oli, come se radono tutto al suolo verranno, ere di pace, cantano cantanti mentre piangono, rimangono, pace senza te, guerre intorno ai, come mitra cerca potere con violenza, io sono pace e resistenza, perché scavo oltre l'apparenza, tu che sei antibellica, passa un cacciabombardiere, gli urlo addosso il tuo nome, chiudo gli occhi, ancora, ancora di salvezza mia, mia follia come la guerra e amen, e così per sempre nel cuore mia, mia, arma di pace sei tu, mentre in trincea bacio il tuo nome, sulla foto che mi hai regalato e accarezzo il tuo tatu che mi hai fatto, patto di pace sei tu, soffio audace a volare verso ieri sere, averne sere ancora insieme, insieme, insieme, in pace dopo ere di guerre vere, verrà la fine di bombe, silenzi su tombe, trombe suoneranno gli angeli, concerti e pace forse, se non radono tutto il suolo verranno, cantano, cantanti mentre piangono, rimango, rimango, pace senza te, che guerra intorno hai come mitra, cerca potere con violenza, io sono pace e resistenza, perché scavo oltre l'apparenza, tu che sei antibellica, passa un cacciabombardiere, gli urlo addosso il tuo nome, e chiudo gli occhi ancora, ancora di salvezza mia, mia follia come la pace, amen, è così per sempre nel cuore mia. Io. Colonia in mano quando mi ordinarono di sparare. Nuova guerra per il potere. Presi il mitragliatore come tutti, friggono organi, bombe termostatiche. Come tutti presi il mitragliatore, ma AK-47, arrivoli di pianti. Morti intorno, bambini che piangono ovunque, madri che corrono, corrono, corrono, corrono. Déjà vu di mia moglie. Ah, pianti. Mentre essere in guerra, in guerra, in guerra. Ci sono dentro Aun, non ci saremo, perché tutto esploderà, esploderà il sereno. Soldato, soldato, guerre io non ci sono, io sono un pacifista, un uomo sereno, non voglio vedere esplodere tutto intorno mentre io digiuno. L'amore nessuno, nessuno m'ha dato. Soldato, soldato, in questo paese di carnefici io sono stato mangiato vivo, sputato. Soldato, soldato, sputato dalle loro guerre, interstizie, fenomeni di immondizie, oscenità che mi oscenano addosso, figli di puttana, stronzamente bastardi. La guerra di armi, urlano madri. Armi, armi, senza pianti ormai, bombardamenti e su tombe, pianti lenti, che guai a toccarle, dei nostri figli oramai. Soldato, soldato, targhetta numero 113, diventeremo 14, e sei armato, una guerra in sereno. Serenamente saremo dopo la guerra un frastuono, per le strade ci annichiliremo. Soldato, soldato, noi che facciamo? Mi hanno mandato in guerra armato. La guerra sta distruggendo tutto intorno, e tutto intorno noi non vogliamo nient'altro che il sereno. Soldato, soldato, un bimbo da un bambino che non voleva la guerra, inerme rimane a un bacio alla madre. L'ho mitragliato come ho fatto, in salvo urlano, ero solo un soldato. Frastornate madri, ricevevo ordini, capitano, salvo mentre jet bombardano, bombardano. Soldato, ardono, cuori, ero solo un soldato. Disincanto ora a guardare un jet che passando, passando. Ignavo, ricevevo tu ordini dalla NATO, che non hai fatto niente. Questo ci diva per la paura della gente. Non voglio più essere un soldato. Guerra, rotolo nel mare del sangue, piangono solo, solo, solo, ora solo in ora mi trastringono, in guerra carro armato stringono, morsa di centi, morrenti, cristi di cristi piangenti, mentre Satanasso festeggianti splendenti, splendidi attorno di cash intingo, intrigo, invite miserabilmente rovine di nucli, centrale vomito, io cono spingono in culo a Lennon. Mentre politici guadagnano Anonymous, banca Sberl, di sberle su sberle in codici virus chiudono ste merde, Putin perde, mentre delle guerre volemo se bene ironizzano, mentre ad ombre e vedri vittima li piangono, bimbi a petroli sacrificali che recitavano poesie di piccoli mitra di parole in pace di canti, menti guerra, menti, menti lucifere, guerre, un pianto di madonne rossa, lacrime piangenti. Rock and roll, guerra, rotolo nel mare del sangue, piangono solo, solo ora, solo, solingo ora mi trastringono, in guerra carro armato stringono, morsa di genti morrenti, crisi di cristi piangenti, mentre Satanasso festeggianti splendenti, splendidi adorni di cash intrigo, intingono, invite miserabilmente, rovine di nucleari, centrali vomito, io cono spingono, in culo a Lennon, mentre politici guadagnano Anonymous, banca sperli, sperle su sberle in codici virus chiudono ste merde, Putin perde, mentre delle guerre volevano se bene ironizzano, mentre d'ombre e madri vittima li piangono, bimbi a petroli sacrificali che recitavano poesie di piccoli mitra di parole in pace di canti, menti guerra, menti, menti luciferi, rine guerre, un pianto di madonna rossa, lacrime piangenti. Rock and roll, guerra, rotolo nel mare del sangue, piangono solo, solo, solo, solo, ora solingo, ora mi trastringono, in guerra carro armato stringono, morse di genti morrenti, crisi di cristi piangenti, mentre Satanasso festeggianti splendenti, splendidi adorni di cast intingo, intingono, invite miserabilmente rovine di nuclei centrali, vomito, io cono, spingono in Lennon al culo, mentre politici guadagnano Anonymous, banca sberdi, sberla su sberla, in codici virus chiudono ste merda, Putin perde, mentre delle guerre volemo se bene ironizzano, mentre donne e madri vittima li piangono, bimbi a petroli sacrificali che recitavano poesie di piccoli mitra di parole in pace di canti, menti guerra, menti, menti lucidi, le guerre di madonna rossa, lacrime piangenti, ora sono le genti. SOS soldati in underground, crisi di dopa, Uranda di Senegal, di mitragliata anima, la rovina di pace. Qua giù SOS che nessuno. Nessuno, io mister nessuno, io no da fino da quando sta strada. Dada sparava povertà. Ucraina ama del cuore de pace, antifaida de faida tipo Arabia. Ora URSS contro Ucraina, ISIS ora Putin, de morte gnam, de petrolio puttana con la grana grida per morte in guerra col cash in bocca. Quanti dino mi sto con una pera de petrolio sfoglio bianco dopo mille liriche confuse e reti cerrati di scopi. Per morte indegna d'estagna, o non fateci guerra, siamo sottoterra. Ma stella che brilla, e brilla una stella coperta a fango e guerra. SS soldati in underground che si di dopo, Uranda di Senegal, di mitragliata anima, la rovina di pace. Qua giù SOS che nessuno, io mister nessuno. Io no ad affino, da quando sta strada, da. Sparava povertà, Ucraina, anima del core de pace, antifaida de faida tipo Arabia, ora URSS contro Ucraina, ISIS ora Putin, de morte gnam, de petrolio, puttana il mondo grida per morte in guerra col cash in bocca, quanti di noi mi sto con una pera al petrolio, foglio bianco dopo mille liriche confusi a reti, cerretti gli scopi. Quanti bro per morte indegna d'estagna, oh non fateci guerra, siamo sottoterra, ma stella di una stella che strilla e brilla coperta a fango e guerra. SOS soldati in underground che zitti dopo, Uranda di Senegal di mitragliata anima, la rovina di pace qua giù, SOS che nessuno, io mister nessuno, io no, da fino da quando sta strada, da, sparava povertà, Ucraina, anima del cuore, de pace, antifaida, de faida, tipo rabbia, ora URSS contro Urania, ISIS, ora Putin, de morte gnagnan de petrolio, puttana, il mondo grida per morte in guerra col cash in bocca, sta troia, de mondo de merda. Fanculo al mondo de merda, ci mette in testa roba de merda, la guerra tra di noi, la merda, non diventiamo merda, merda, che siamo tutti quanti merda de merda, coscienza sporca de cash per una stagna, siamo merda come se morissimo in guerra, merda siamo, tutti quanti, non è escluso nessuno, facciamo le vittime.